Yo más dummy tú sí. Mauro Razzi di Buffendi, Fendi, Tirenti, cosa vai, cosa vai? Tu sei Buffendi, Tirenti, Fendi, Uiui, Maduroni. Che pezzuccia, io ho perisciuta, cosa c'è, ho fatto la sola bocca a famiglia. E a chi non lo sai, non conosci? C'è euro, Razzi, se dai 3 mesi, a te si innanza e noi. E ma fumare, mi mangio un sono computer. E l'ho lasciata acceso, non è entrato manco un cagnolino, manco un dolore senti. Boh, chi ci pare? Ma travaglietti. Boh, io ci faccio 3-4 chiamate, non mi ha risposto nessuno. Così che... Ah, io non ti ho sentito, a meno che noi due in bagno, o in terrazzo, in camera da letto, quando mi ha fatto una oretta. E oggi c'è giù. Faccio 10 minuti qua, Buffendi, Tirenti, Fai sono tutta a te, capitegge. E allora, ma com'è, mi mangiassi il computer. Oggi c'è, me la sento un po', che era buono carica la batteria. E la giù attaccata a carricare. E non ho un mese senza mai dammi, almeno lo faccio funzionare un po'. A cosa? Il computer? Il computer. Anche la batteria scarica. Sono da un mese, non l'avevo attaccato. Ma quello l'avevo sempre prima, è un nuovo questo. Qua sempre. È il nuovo nuovo. Cazzo, ma ci viene un tratto, è un Lenovo questo, l'ho preso, io non ho preso niente, non ho usci, cos'è, è un Rubis, non me la metto, ma se mi pare è un Rubis. Oh no, a me la Walker. Quello per andare alla centrale del latte, quello che c'è sotto quel culo, tipo. Ah, Uroni, Uroni. E lì l'avevo preso, 470 euro, lì l'avevo abbagato. Questo è importante, è il nuovo Rube, è l'Enoco, si chiama. Quanto l'hai pagato? 470, ed era in offerta, ma saranno un 2 anni, boh. E più di 500 mi avevo pagato, però avevo preso una cosa, me la work io, c'era l'offerta, e più di 500 l'ho pagato, c'è. C'erano gli sconti, non costava un bel di più, e l'unico che costava più poco era l'Icciu, è una samassa, però mi ho preso questo perché era più bello. Sì, ogni tanto me lo metterò gli sconti, capito? Sì. Io l'ho pagato così, sulle 500, ma perché c'erano gli sconti, so questo va più di 600 e rotti, capito? Questo lo stesso, cioè non mi ricordo quanto era lo sconto, ma se stava un bel di più, stavano facendo le offerte, ma una ghita vedano questi sconti speciali. E io avevo preso il tablet anche, che è il nuovo Rube, che ce l'ho con me, ma se si è trattato. E avevo preso tutta la confezione, la fodera, il pelle, l'ho messo dentro, no? Tutto completo, là. Avevo preso questo e quello là. No, il tablet non mi è piaciuto a me. Uso poco il computer per mangiare, dovessi prendermi il tablet. Non mi fa, non l'ho preso per quello, sennò a questo l'avrei avuto io. Ma non mi piace, capito? Sì che non l'ho mai preso. Tanto uso poco anche il computer, per immaginare. Io l'ho preso quello là per non portarmi questo quando scendevo in campagna. Riportando il tablet, puoi applicare anche la tastiera come il computer, quel tablet che ho io e vede come il computer è uguale identico, solo più minore, capisci? Però funziona bene, ultimamente diamo la voce del campano. E anche da lì puoi guardare quello che guarda il computer. Poi va tutto come a te se vuoi, solo è più piccolo e la mi dai di un computer, di un bugino, un quadro, no? Quello che è meglio così. E volendo ci puoi applicare la tastiera, la compri a parte, ma non me la utilizza. Da validarsi in un mappe più minore, già funziona lo stesso. Ma ed è uguale al computer, scusa. E cioè, bello, ecco. Io lo so poco. Io magari lo uso magari solo per guardare qualche cosa e basta, capito? Altre cose non le so fare, no? Capito? Per cui, e mi dice magari a cercare un apparecchio, te lo cerco e te lo trovo subito. Ma se mi dice a scrivere cosa, per me è negativo a scrivere. Ma io me l'ho imparato un poco da mia figliura, un poco dall'amica di mia figliura e venina in ogni, me l'hanno fatto vedere. E poi mi alleno sempre, io sono sempre furugena, paesenni, cuffarendi, ed è facile. E vedi, mi avevo fatto anche quella carta PayPal che c'ha Luca. Prima qualcosa me la comprava lui, dammi la meglio io. Che se mi vengo, mi interessa, ricarico la carta, poi lo scrivo qui, mi mando l'ordine e poi mi danno la risposta dell'ordine confermato, pagato e mi dice di andare, che c'è scritto, no? Con garanzia è tutto, dunque non mi butti nessuno, se non mi arrivi un baffo, tramite PayPal e Amazon mi rimborsa nessuno, capito? No, io non so fare quelle cose, sì. A prendere qualche cosa, a pagare loro. Prima di tutto quello che ho la carta, poi no, no, non ne so fare io di queste cose, capito? A me, quando devo prendere qualche cosa, lo dicevo a mio figlio oppure a Luca, capito? Ma io non mi sono messo mai di impegno mai a farlo io queste cose, capito? E ho preferito sempre mia figlia o Luca, capito? Io me l'ho fatto dire da Luca come si faceva tutto, la carta, capito? Un po' mi l'ha detto Edo, un po' come mi l'hanno detto gli amici di mia figliola, pure mia figliola, Milano, tutte e tre Milano, pure Edo, che cosa della mia, c'è un sacco di cose che tramite internet la paghi la metà e non che la paga per più bene, capito? Infatti la Badenni, no, una cosa, io l'ho pagata 65 e non che costa 49, per dire, no? Che cosa 42? A Giulietta aveva comprato un coso da inogazzata e l'aveva pagata 75 io. Ho guardato su internet stasera e costa 49,90. Dunque, vedi, ma ne buttiti, vedi se puoi di più i nomi la giù bagato. Capite, è uguale di tutto. Ma anche su internet trovi le fregature ugualmente. Sì, ma io non mi vedo un lucro, ci sono vari negozi, tanti negozi. Io mi guardo un po' di negozio, tutti non me la mai leggo, dove ci sono gli sconti, le offerte, e lo trovi sempre quello che ce l'ha di meno, lo stesso prodotto, capito? E allora me lo ordino da lì, hai capito? Quando devo comprare cose. Non c'è solo un negozio, no? Mi sono a migliaia di negozi. Basta che giro, guardi, per esempio un negozio, un impiegato di mia figlia, la cugina cucciava del giro, andiamo a mandare un altro negozio con casino, e sono 4 euro di meno. E poi devi guardare anche spedizione gratuita, spedizione non gratuita, capito? Boh. Io non è che proprio mi sono messo il pendolo, dimmi, magari io ripeto, guardo magari, vedo quanto costano e me lo faccio ordinare, ma io non le so ordinare, capito? Perché devi scrivere, poi non c'ho la cartella, la scheda, io invece che non faccio più niente, non faccio niente io. Non me la so voluto fare perché non mi interessa la scheda, capito? Beh, c'è come la ti preoccupa la lista di buchi, tu e lo paghi di meno. Da Luca te lo fai imparare, te lo fai vedere come ti funziona tutto il procedimento. Io la trussata. A me mi balliamo difficile, invece è facile. Adesso Luca mi aveva detto di questi pareti a letti, a pannelli solari. Mi ha detto, mi ha mandato la fotografia e me li ho comprati, me li ho ordinati e mi sono arrivati. E allora la russi che fa? Me l'ha pagato una tronzata. Qui uno solo, uno lì. Luca l'ha pagato 9 euro, da un cinese un buco, a me da Davide. E Luca già ci risparmi un sacco di soldi. Ah, le lampadine? No, dei pareti sono questi. E li metti al sole, di lì, oppure di neofessori, di buoni alla ruggida. E la sera di riboni i 30, io ne ho pigliato 6, li pongo uno in bagno, uno in ingresso, uno in camera da letto, uno in cameretta, uno in salone. E luci non accende, passa e si accende la sera, si illumina già tutti. Nel frattempo che rimane lì, rimane acceso, quando se ne va e si spegne da solo. E il territorio luci non accende. Ehi, quelli alle sole costano poco, infatti niente, quelli alle sole perché c'è la mia figlia così, capito? Ce l'ha nei garage, ce l'ha fuori, in strada, e ce l'ha nel magazzino, e tutti da poco di parenti, dichissimi. Perché infatti si accende quando passi la parte, capito? Qua costa molto di più, già lo so già, mentre in internet costa di meno, secondo i tipi, capito? Perché ce ne sono tanti tipi, grandi, piccoli, di tutte le maniere. Adesso io me ne devo ordinare uno, che è grande, lo metto in salone, c'ha 60 letti, lo metto in salone fisso, sopra l'arpa partendo dentro nel salone e fuori metto il pannello e lui poi la di 10 minuti pure. C'ha una prolunga che lo colleghi al paletto e quando quella gente che mangia i saloni accende un vice l'appalario non accende. A chi fa un bel di vista c'è la luce che fa. Illumina già tutto, poi con la luce bella bianca, bella forte, ti piglia rocci, buci, ti ha mai di rubare. E ci piazzo quello, così quando ceniamo o ceniamo il salone, si accende quello, invece accendersi con lampadini. Dentro casa no. Dentro casa non metto di queste cose. Magari fuori sì, vabbè, cazzo, dove non c'è la luce, già un altro discorso, ma proprio dentro casa no. A mettere la peruca così, no, cazzo. Non lo so, preferirei quelle lampadine e cose a lette, quelle bianche, no. Quelle mi piacciono a me, che fanno un bel di luce a posto di questi lampadini che abbiamo adesso, capito? Infatti io ne ho preso due e una l'ho messa sul portone, l'ho messa. E fa un bel di luce bianca. E quella è come questa che c'è in cucina, anche camera da letto. Sì, ma con quelli là, ma con chi ci consumi sempre corrente, con chi non consumi nulla. A chi è gratis, a chi ti raccarica l'usore, no, non è consumo corrente, capito? E padre in cucina per sempre la luce accesa. E cameretta con la base sempre accesa, invece metti quella voglia che illumineggia, tu li abbaggiù, è come un lampadario. E infatti fate la luce, no? E poi quella luce bella bianca, proprio bella potente. E non consumi corrente. Il salone io la metto a parte dentro sopra l'arco, con due tazze lì. La prolunga la passo sulla cornice dei ricami che ci sono. Faccio un pochetto e la attacco. Sì, boh, ripeto, a me non mi piace, nel tuo caso no, non mi piace. Fuori va bene, ma dentro casa no. Da fine lì a 5-6 fuori, o di più pure. E c'erano grandi, piccoli. Va a pigliare la macchina e si accendono, che è come passi davanti. Ti puoi immaginare, in quel garage, siccome è il garage largo, ne ha messo due bombe di luce, a voglia. E lo so che fanno luce, capito? Lo so, però, ripeto, dentro casa non la metterei io, capito? Io buon, e allora, sì, è per rifarmi l'anno, me ne ha tanto lo si vede, non lo fare. A chi è in alto, sopra l'arco, e fa proprio la luce a tutti i salone, compreso. E mica si vede. Volendo vendono anche le lampadine con i simili. Puoi mettere, puoi comprarti solo le lampadine. Oppure ci sono, ho visto anche dei lampadari fatti così, però il prezzo non li ho guardati perché non mi piaceva, volendo, a letti, lampadari con le lampadine a letti, sempre a pannelli solari, e funzionano sempre con i pannelli solari, funzionano col sensore, quando passa a casa non si accende, quando passa le sciure si chiudono, capito? E vuol dire beh, che non consumi correnti. Che è Mari? Perché c'hanno il sensore c'hanno, dimmi lui. Buonasera. Buonasera, guarda che ho mandato un video. Che Mari? Ciao, grazie. Ciao. Ciao lui, diglielo tu che se ci mette il parecchio o quel lampione. E risparmia energia elettrica, che non consuma, Luca, Gian Maria. Che risparmia già un bel vero, per quello che costano, guarda, io ne ho 5 già di quelli. Poi adesso mi stanno arrivando le lampadine da mettere nell'impianto di casa per l'impianto solare. Che ho fatto? Non so quanto risparmi, digliela Gian Maria, Luca, di Dina. Cara era capito. Intanto mi arrivano i lampadini, sta a gas illuminata da pannello solare. Sì, lo fai uno. Cazzo, ma non ne metto dentro casa con la roba. Grazie, io non ne metto dentro casa. Vedi, quello che ha fatto Luca magari, quello è diverso, però quello magari gli accorgere. Ma quei pannelli così, no? Vabbè, Luca ha fatto un lavoro da grande magari, perché ha messo il pannello solare così e lui. Sì, l'ho messo sul tetto, ho fatto l'impianto, ho passato due fili nell'impianto per ed è già predisposto, adesso mi stanno arrivando le lampadine. Quello vabbè. No, ma poi a mettere. Non è quelli che ci hanno regalato a lui, cioè sta mettendo, capito? Lo hanno lasciati quei faiti. Sì, mi pare, mi sembra che sono quelli. Ce ne sono diversi modelli, io non so quali ha preso. Costano una cazzata, però va bene per fuori, ma per dentro casa. Non metti a me, perlomeno, io non le metterei, dai. Ma io li ho di giorno, guarda, li metto in terrazzo a caricare e poi la sera ne li entro, uno in bagno, uno nell'ingresso, uno nell'andito e non sto più usando i lampadari di casa, che quando passo si accende la giura intanto. Ma comunque, se a uno gli piace, a fare questa roba così, vabbè, a me non mi va, e anche troppo, e ha trovato la lampadina. Dice, ma così il consumo corrente che se ne frega? Esatto, ma che si consuma lì, ma, oh già, per carità. Cosa mi ha dato il video lui? Eia. Adesso mi ha mandato. Sì, già 10 minuti. Non mi sono nato, adesso guardo. E beh, negro, lavorato, aiu. Illu. E cosa ti ha dato a mangiare? Lo zingaro. Illu. Caffone. Caprafiore. Buonasera, buonasera ragazzuoli, buonasera, Gio Maria, buonasera. Facciamo le mani, buonasera Goffo, Goffetta, buonasera, Goffrippe. Goffrippe sto parlando, e Gio Maria, poi gli altri sono tutti a Santo Mauro. Vabbè, cosa stai facendo? Mi sto preparando che devo uscire. Dai, ci sentiamo dopo. Vabbè, oggi è venerdì, già è vero. Il venerdì sei riuscita al circolo? Cosa buona si mangia al circolo oggi, Luca? Che meglio? Ma tu l'hai piattato col portoncino? No, questo è l'originale. Io ho piattato la serratura di sicurezza. E quell'altro quadretto cos'era? Che non si sta bene. Quale quadretto? Avevo un quadretto in mano. Un faretto, sono faretti, quelli che fecero Graziano. Ah, ho capito. Ah, ho capito, sì. Hai visto ce ne fanno? Lo so che fallo, l'ho creduto bene. Va benissimo. Luca e Monte, attento Montanaro, non risponde. Riprende la Grazia. Eia, si sta cambiando, deve uscire adesso. Oh, Luca Montanaro. Hai visto bene, fatti luci, eh? Oh, Luca, hai visto quei due bestioni? Rippera. Mimmi. Hai visto quei due bestioni? E dove? È quello che ti ho mandato. Tu a me non mi hai mandato niente perché non mi è arrivato niente. Cazzo, ti ho mandato niente. Perché te li ho mandati lì? Non avevo compreso, mi rifiuto. Capita, che ci sono almeno 4 figli di uno, sono di più. Non provo a dire a metterli in mano, tutti e due. Dice che a mia mi dice fare stare i razzi. Non provo a dire a mantenirli. Tui piove, cari. Più di 4 figli in uno sono quelli, sì, secondo me. E tu? Belli, belli veramente, anche ha messo la pressione. Quando cuciniamo sì. No, ieri me ne ho fatto altri due che c'erano poi nel pozzetto. Questi quelli ieri li ho messi nel pozzetto, li ho visti, cazzo. Sono ben male, cazzo, sono per tagliarli due e così andare a mezz'ora, ma che troppo vanno. Cazzo lo magna. C'è un grido. Quelli una volta che li congeli poi già si fanno morbidi. Ieri me ne ho fatto due. Io ho fatto un po' di insalata e un po' mi sono cucinato le mezze penne con il sughetto e ce l'ho messo in mezzo, cazzo, e mi rivimbe. Finito a metterlo, libera! Grazie, ogni tanto si interrompe, chissà cosa dire, di saluti. Oggi ho aggiunto pasta e fagioli con finocchietti di campagna. Ciotta, bella prestata, in sarruia, patatu, e a seconda pavette fresche con finocchietti di campagna, aglio, prosciutto e peperoncino. Buona legge! Stamattina sono andato da Campo e mi sono preso la pelle e ho visto quei due braccieri che c'erano. Oh, sto a gas, non sono a carbone, no. A gas, te due romani luminori, so. Sono a gas, sono, grazie. Infatti, ho fatto la fotografia, però dopo mi sono... Ma no, canta, no, questa è la gas, allora ho cancellato tutto. No, a gas non mi dice, no, ma me lo compro su internet, l'ho già visto. 119 euro con le ruote, c'ha il coperchio, c'ha il manometro, c'ha le valvole di aspirazione, c'ha il cassetto estraibile per la cenere, c'ha il ripiano a un fianco dove appicchi pure un bicchio e quelle cose così, forbice, pinza, poi c'ha un ripiano sotto, c'ha le ruote, lo sollevi e più mi danno anche il telo per coprirlo. E ci costa anche di carbonella e anche per accendere il fuoco metti uno di quegli accendini fuochista, c'è una manovella e accende quel fuochista e accende la giura, poi c'è l'aspirazione d'aria a destra e a sinistra che li puoi aprire e chiudere. E beh, è che viene da Mauri, tutti i tipi viene da Mauri. Sì. Non mi tocci. Sì, sdraiato sono. Che sono tutto a dolori. Sì, aia. Ma io mi sto preparando per uscire. E se a voi, siamo con i venari. Non se per me mi sei rimasto a casa. Dove va? Mangiato la pizza stanotte. A fare un panino. Sì, non la giugare, amigione, sono stanco. Stacco. Ah. Ah, così no? Sì, infatti sono uscito da... Mi ho fatto un lavoro quella mezza giornata con Luca. Mi sono sistemato anche un telefono. Qualche spicciolino in più in tasca, va. Eia, ma guarda, c'è un telefono di Alette, Chiara. Ah? Luca? Sì. Ma guarda, c'è un telefono di Chiara, per poter andare a lei. Aspetta che forse... C'è mia nipote che c'è la guasso. Perché ricevo dare messaggio, però dopo telefonare lì. Glielo dico se lo metti a posto. Chi? Non ho capito, Gio Marino, tuo nipote riceve o forse magari non la sentono. Boh, fammi capire. Può mandare solo i messaggi, capito? Può mandare solo i messaggi, ma in chiamata non chiama. Boh, fatti dire che il telefono ha il modello, così vedo. E adesso è uscita. Appena rientra, già ti faccio sapere eventualmente domani, dai. Capito? Chi è? Quella che è smatti con Luca a vedere il lavoro lì in via Bugino? Mia nipote. Quella che è smatti con Luca a vedere il lavoro in via Bugino, quella è. No, mia nipote è figlio, è la figlia del mio figlio, che quello che abita qua, di fronte a me. Ah, ok, dai. Va bene, solo la conosco di vista quella. Conosco da qualche anno, di vista sempre, capito? Va bene, Gio Mario, quando vuoi mi fai sapere, ti fai dire il modello del telefono, il problema, così vedo un po' se riesco a risolverlo, dai, va bene. Sì, ma appena che rientra glielo dico, se lo stasera o domani glielo dico, eventualmente ti farò sapere, non capito? Ehi, non c'è problema, quando vuoi Giovanni, pronto? Ah, fatti, grazie. Ehi, già andavo con un panino, si è entrato a Puglia. E così, vabbè. Vediamo se c'è Luca Flipper, riprendi Luca. Bravi siete, bravi. Oh, mi rifugio a travaglio, dai, ce ne fosse. Poco a poco, è meglio piccolità che abbia dato zia Ghito. E poi, chissà. Sta aspettando la domanda che ho fatto, ma mi sa che la rifiuto, non me la fu finita tanto. Devo stare a conto di loro. E poi questa è Luca me l'ha fatta fare. Falla tanto, poi vedi, ma lui non ne ha fatto. E beh, che ce la fai da voi di già, ma ne andare a travagliare pure, vi deve andare. Non è rubato di andare a travagliare, ho fatto tutti i secondi in fura che è diverso. Anche quello c'è. Mi sono stati di nati, cioè, i soldi, ma sono una miseria. Ma no, perde che è meglio qua. E poi, mi sa quei soldi, e li devi allontanare solo per pagarti bollette e per acquistare roba da mangiare e buh, non puoi fare altro. Siete la serie, se io ho bisogno dei soldi magari per fare una visita o magari non ne so, per tante cose, uno compra si roba da vestire, non so se va bene, ma alla fine è fatto, andare a farmi l'esenzione. Tu te l'hai fatta l'esenzione, Luca? Questo mese, sì. Ma allora dobbiamo andare in una mattina, ci andiamo a farcela. No, ma se ne è occupato lì di San Antoniano. Non l'hai fatta tu ancora, Luca? No. E allora ti vado lunedì, Luca. Va bene, avanti Gio Mari. Ok. Lu, sì. Finito hai? No, ancora no. Devo fare, sto facendo vedere cose a casa, quelle robe che faccio a casa, che devo spedire, se no non ci riesco più. Che sto lavorando lì e ho lasciato indietro le cose da comunicare. Vabbè. Appena che finisci, ci sei lì però. Te lo sai. Che da gufo! Dormi tu sì! Ci stavo. Ma lunedì ci stavo aspettando, boh! È un po' che Libia e Luca! L'ho fatta Gio Mari, lunedì siamo rientrati tardi, e poi sono andato dal principale. Sì, vabbè. Non è una cosa d'urgenza, capito? Dacce nel tempo. Ci devi fare il foglio, Isa, fatto tracci, Luca! Luca! Ma devi che. Dillo quale Luca, sono due Luca mi. Luca Valicomio! Certo che ce l'ho il modello Isi, se no non potevo fare quella domanda. Ci vuole quello. Se no non ti lasci in Luca, devi portare quel certificato lì. Ma Gian Maria, ma 7.30 l'altro mese si fa così. Cosa? Il 7.30 si fa a maggio così. Ehi, noi oggi abbiamo fatto 3-4 coppie, abbiamo fatto. E lunedì dobbiamo chiamare per darci l'appuntamento, capito? E così via, abbiamo tutto pronto noi. Appena che ci dico il giorno, saliamo, li diamo tutto e siamo a posto. Fanno tutto loro, capito? Anche da me! No, io l'aggiù da riga solo qualche visita che ho fatto a pagamento, quella roba lì. Del resto, cosa gli vuole? Nulla! Devo telefonare a vedere quando me lo dà l'appuntamento. A andare a farlo il 7.30, però io sono così quasi a maggio, questo mese non penso che ne faccio. Noi abbiamo preso quei fogli bianchi, tutti quegli scontrini, abbiamo pinzati su questo foglio bianchi, mi sembra che siamo 3-4 fogli. Stamattina siamo andati e abbiamo fatto le fotocopie di quegli scontrini della carta d'identità e della testa sanitaria. Così è tutto pronto, c'era solo a portarglielo e dopo si chiamano loro quando andranno a ritirarlo, capito? Io gli porto gli scontrini così. Glieli lascio lì, li lascio tutto lì, si fa delle due etichi e pago 10 euro, mi chiede sempre, quando vado a ritirarlo, si fa delle due etichi e allora si fa tutto il cazzo, fanno tutto loro. Ehi, sai così. Io non sono iscritto al sindacato, però mia moglie è iscritta al sindacato, sì che lei lo paga, ma io pago, capito? Siccome fa anche il mio, è quello del mio lo devo pagare, capito? E l'anno scorso con gli scontrini, con gli altri due, per dire che sta lavorando mia figlia, li lascio tutto lì. Mi fate tutto e da là poi mi chiama che ha detto tu pronto, vado, firma e mi rilassi e mi dice tutto a posto. Sì, c'è tempo ancora, io voglio. Ma c'è tempo ancora, per cui comunque noi lunedì telefoniamo e prendiamo l'appuntamento, capito? Fatto, fatto, e non se ne parla più, capito? Tutto lì. Luca Montanaro, se quello si sta facendo bene dentro il file. Cazzo. E io Mario, cioè mi sto questendo, dai. Fai, lo fai, tranquillo. Flippera, cosa stai cucinando oggi? Cos'è il pollo? Salciccione o cinghiale? Flippera, farà Giuseppe, grazie. Cosa? Flippera, se farà tu. Farà, accendendosi il fuoco, Flippera. Infatti, perché deve arricchire cos'è il pollo, e salciccione. Flippa, cosa stai accendendo il fuoco? Ma dammi cosa faccio quel baby cucchiaio che devi comprare, grazie. Cosa? Ma dammi cosa faccio del baby cucchiaio che devi comprare. Aspetta, sì, vanno, non così filati ancora, aspetta, riguardo. Che Maria mica te l'ho mandato. Lo sto guardando. Guarda che bello che è. Ingrandisci, non mi tocca sulla figura. Costa 110, lo dà. Lo vedi? Spedizione rapida senza costi aggiuntivi. Consegna senza costi gratis della spedizione. E costa 110. Guardami al fianco, premi che c'è tutti i disegni aperto, chiuso. Guarda che bello, guarda. Allora vedi? Vedi ai lati che c'ha quelle ruotelle argentate, quelle leggine sono l'aspirazione dell'aria. C'è anche il cavassabbie dove c'è il maniglione. Se vuoi aprirti una berretta. Vedi già anche la griglia sopra per rimanere al caldo, la cosa già cucinata. E c'è anche il tappo, c'ha. C'ha il tappo, tu lo abbassi quello, c'ha i laterali, c'ha dei buchi che giri quel coso e entra l'aria. Poi vedi c'è un'altra griglia sopra, quando lo apri, ne levi la cosa che è già cotta, la appoggi lì su e rimane al caldo e sotto buoni la roba di cucina, capito? E poi se vuoi lo abbasso il coperchio che cucina prima. E sopra il coperchio c'è anche il manometro. Poi vedi qui sotto c'è il maniglione. Quello lo apre e metti il carbone. E poi c'è il cassetto appena più sotto. Tiri quello per la cucina. E io si vede, si vede. E quanto è grande? E ci sono scritte le misure. Allora, Tepro barbecue a carbone Toronto, clicchi modello 219, acciaio, inox e in acciaio pure. E le misure esce, vedi, ecco, già ci sono scritto. C'è scritto mi, superficie del riscaldamento 53, capacità di carbone, tempo di montaggio 20-30 minuti. Vecchi tutto me, allora, vediamo, clicco, aspetta, griglia smaltata, rimovibile, superiore 56x41,5, e già mi hanno detto io andavo già, poi superficie di scaldamento, fai tutto, ripiano, quattro ganci, fai tutto, c'è anche il telone se scorri per coprirlo. Andà bene, già andà bene, va benissimo. Sta facendo così fino a bacchissimo pure in campagna, però magari è diverso, però sta facendo così come c'è la bacchissimo. Vedi più sotto se sollevi c'è il telone, un altro coso, non so cos'è, è un coso che lo usi, metti il carbone dentro e accendi il carbone, una volta che è acceso fare una paletta, l'apri e pone il carbone dentro al barbecue. E tutto viene 7,44 e 48, tutto completo, mi. con calacce di fuoco, terone, maniglioni, beh, qui sotto c'è scritto barbecue a carbone, Toronto, Clicchi, Modello, eccetera, poi beh, zero copertura barbecue, poi beh, Brunster, ciminiera con il pugnatura di sicurezza, accenditore, la palazza di Rugalbo. Insomma, con quegli altri tre articoli, quasi. Ah, va bene, va bene. Tanto lo usa Rosi, tu solo a Baidica, tu, quando si arrucendi, no? Fai solo l'assaggio, tu no. E allora, lo c'è fidarsi le direttive e deve essere docu, la garri, se no il frusto. E infatti, tu sei l'intenditore, grazie. Un primo, il piatto solo a mangiare e basta, no a cucinare. Già per la sceffa a cucinare. E allora, non ho capito, ma già rifasi bene, un travaglio, un movimento, e dopo hai da ripiace, è contenta. Non credo che è contenta, a che da così già tu mangi. E la voglia è da fare da Rossella in piccoli tenni, ti credi che non è l'ombia? Non prendere. Perché andare, fai così che è meglio, dai. Prepara! Luca, ma il fuoco acceso, che sto passando, vai con un fumo dai nocchi, ma guardate i quinelli giù sull'atti rossi, non fumi i nocchi arrivenni. Tanto fai con un fumo, deve essere che ha posto legna grossa, tanucci. A che il fumo è arrivato dai nocchi, buru. Ma mi ha detto che è più bene, ma Luca gli ha fatto un tendone, già è ben attrezzato. Capito? Ma come se non mi picco di Luca, non finì, commercio, non finì. Luca sì, se vuoi che te lo porti a Luca, lo paghi. Ma chi ce ne fa Luca? Giù voi di chi ce ne devo venire io, cosa me ne vuoi? Chi ci andava in campagna gli annati. Quello di Luca è troppo grande. Già l'ho visto già. Mi ha fatto vedere. Senti, sai che mi vuoi tre passori ma tra il pucciallo. Vabbè, quando siete tutti voi, gatto, quanto siete in casa? 3-4 siete, così è. I quattro siamo. Ma è troppo grande quello che c'ha Luca per me. E cosa mi ne vuoi? No. Quello è esagerato. Senti, sai che c'è? Chi lo vedeva la metà di chi su? Perché qua davvero? Ma Luca mangia un mente zicco persone, ecco ma cosa l'ha fatto così in mano. Capito, lui mangia per 5 persone, mangia. Ma io se la cresce in sabbanza di voi fa lui. Già lo so che mangia ma non fa zicco, ma te si mangia. Già mi lascio in fotografia, già. Ce la mando a posto. Spiegate chi sono Luca? Allora poi ti la mando. Che già laggiù, già la giuvista già. A voi la giuvista. Chi è Luca già? Quella lì c'ha. L'ho vista in persona. Dunque, a voi la parola di questa pasta, di andare a parla di tutti. Non può piena, tu puoi scherzi di pollo e tu la legge. Cadè, tu che ti vola che da passata mi ha mandato l'umeru, bisecchi, zaticoli, pancetta, pollo, io andavi a poco di roba. E tu vieni a mangiare mi pare in 4-5. Tu hai già mangiato, giri di zaticoli con finocchietto, senza finocchietto. Caspita! E poi la sezione è grosso qui tu così l'hai già detto. Guarda che tu fini, dice grosso è. No, fini la grossa e fini, che tu fini si farà un lampo, allora è quasi, fini e grosso, tu fini è fatti fatto, basta già grande cucinetti. Ehi. aspetta, io so che mi metto in tribunale, gatta. Bubu. Ehi, ehi, ma avanti la cintura, trovo già travagliato, casina, là. Aspetta, già sono qua. Graziano. Ciao, Tore, ma tu mi pare che sei bicciolato e sei travagliato. A chi c'è l'orario di un operaio che si dà travaglio? Cosa ne pensi di dire? E veramente ci sono rientrato un quarto d'ora fa, mi sono buttato a pulire la stufa. Ero già a San Giovanni. Adesso mi sono fatto che un po' di ghino. Non lo so, Bruno, mi sa che tu sei travagliato a nero, altro che picciolato. Ciao Marie, cosa ne pensi di dire tu? No, ero giù ai campi di San Giovanni, ero accompagnato a me nipoti. Poi c'è stata a casa di mia figliola, me ne ha giocato un po' gare di un giubbotto, ho fatto asciuttare. Poi ci sono uscito, io vedo la mia moglie e ci sono giunta ai nomi. Mi sono buttato a pulire la stufa, mi sono andato a pulire l'azzendo. E per me aveva vivi, boh, quando vai, oggi a Portuera non si tiene un impermeabile in macchina, io ce l'avevo sempre, 30 rugoccolo, 30 una borsa. Quando mi devi la Eva, non bucava il mio buia, e la baracqua buona mia, due o tre ombrelli sempre, 30 rugoccolo. Ma ne riparavo, perché tanto ti serviva, sai, infatti li mettevo in casa. Ma come ti veniva a settembre o sopra e stavo d'ora in macchina? Ero gioco. Ah, meraviglio. Allora è rimasta in occhi. Anche me ne sono dimenticato di punirla in macchina. E non solo, in quella borsa, in quello zaino militare. Chi va via, va a segnalare. C'aveva all'interno anche gli stivali, il pantalone, quello di nylon con il giubbotto. A chi ci mi capitava, secondo un'ira, mi puniaisce e mi riparava a darsi a facciuta. Hai compreso? Qualche busta c'era, qualche retina. Quella roba ce me la tenevo l'inverno, sempre in macchina, tutto l'inverno. Ce la usavo anche per lavoro, capito? Gli stivali, quel giubbotto anti-acqua, col fatto di travagliarmi i buniaisci. Capito, miai? T'ho capito, sì. Purtroppo, grazie, sta roba la usavo quando stavo lavorando, avanno. Ma non ne tengo più in macchina. Anche io so quando lavoravo, se stavo lavorando ce l'avevo finito di lavorare, no, l'ha già rubato in garage, lo sanno, questo momento è ancora in garage. E oramai non ne tratto di altri. Se la giudi farà in campagna, capi lui se l'avrà pulito. Sicuro, sicuro. E lo signor Bacchi? Di una patata a campagna. Avete parlato in due, buonasera a tutti e due. Avete parlato in due, vi siete castigati. Magari ci arrivi tu prima. Boh, non si di nulla, tutti e due chicciati, irati. Aspetta, bella bega, prima, se io sono più vicino di te, dunque sono... Chiaro, tu sei più vicino, tu lontano, A quando svegliassi il Tore tu devi mangiare anche la pasta asciutta. Visto là il Tore che ti ho fregato nella curva, da te a qua, c'è la curva, devi fare la doppia curva. Io sono invece dritto, proprio puntato verso Bacchisio. E arrivo vista di poco di la via di casa. Ma ti sei mancata, va? A me dai, va, vedi. Poi c'è un microfono minore, dove vai? Noi baciamo a casa la batteria. Da che riga ci ha mangiato? Grazie. La batteria gli è mancata a to. La batteria è rimasta a buio. Dottor Marino, ho sentito sì stasera, Tore. Tore! Vabbè, sì, due, sotto a leva. Adesso chiudo, là, è morta la batteria, l'ho messa a caricare. Vi saluto, là, domani. Ciao a tutta la ruota. Ciao Marchisio, ciao Sore, ciao Giammaria che è in ascolto. A domani se coincide, ciao. Ciao Graziano, stammi bene, ciao ciao. Ti prendo Marchisio. Ciao Graziano, buona serata, buon correttivo, buon tutto, buona cena quando la fai. Saluto la signora. A domani se tutto va bene. Allora tu, cosa dici? Marino non si è sentito stasera, dice che accendeva. No, io sono entrato 10 minuti fa, sono entrato. Ero giù ai campi di San Giovanni. Poi ha cominciato a fare Eva, un bel. Ho messo che ho fatto che un budeghino. Ha detto una mini budeghiscia. Certo. Uiuia, non l'ho sentito quindi. Ah, non ce l'avevi la radio appresso? Ce l'avevo ma era in macchina. L'ho lasciata in macchina. Ha cominciato a fare, vai a vini vini che ha cominciato, a boia ha cominciato a far foci. E vabbè, andava bene. E tu di cosa c'è? Fuggito dall'Eva. Che fai che avessi cosa qui? Avessi cosa che ha cominciato? Sì, che cosa? A fare che va vini vini, andavo in tenda, alla fine era grossa, ha detto beh, io al garage, infatti era in garage, era un tre quarti d'ora, è giunto un mio cliente e le amici erano vendendo. Hai detto, ho tenuto ti si manda a me. Ma ti lasciava venire ai nonni. Andiamo, vai, andiamo. Ehi, va chi? Cosa volere fare? No? Sì. Stamattina mi ha chiamato Marino e dice che accendeva stasera. Invece lui doveva. Non si è sentito, forse gli ha fatto il sonno. Sì, vuol dire che ho durato il contrattempo con un ibuti, con un ibuti, e quindi stavo mantenendo un ibuti. No, dovevo mettere a posto l'antenna, non so. Dovevo, poi ci sentiamo, invece nulla. Nulla, io penso gli ha fatto il sonno. Perché ha lavorato oggi, tutto il giorno. Ma chi? Ah, sai che ho attaccato l'antenna, quella che ho fatto, a quello nero. A volte funziona, a volte no. A volte funziona, a volte no, ma non è colpa della radio, è colpa dell'antenna allora. No, perché con l'altra funziona bene, funziona. Beh, ho controllato le stazionarie e funziona benissimo. Quanto c'è di stazionarie? Uno di stazionarie. Non si muove bannunda. Volo, caspita. Volo. Quando subito o quando scalda se ne va. No, l'ho attaccato come muovo il cavo. Si sente. Quante cose? Non si intende nulla. Boh. Allora il cavo interrotto. C'era nel PL, la saldatura del PL che non fa massa. Poi è fatto così bene. L'ho provato con il con l'altro e funziona benissimo. Funziona. Certo, l'ho provato e sentivo bene a Giommaria. Invece metto l'altro. A volte funziona, a volte no. Allora le belle. Allora le belle non le piace l'antenna esterna. Vuole andare con l'antennino. Ma deve funzionare per forza, se funziona uno deve funzionare anche l'altro. E a me mi pare che non funziona bannuda, funziona solo con l'antennino e boh. Che sia fatta solo per l'antennino, ma se l'attacco dell'antenna c'è. Sì, l'ho provato e no, non fa. Funziona solo con l'antennino, funziona. Quanti watt ha quello lì? C'era pochi watt. 5 watt c'ha quello lì. Poi c'ha 5 watt. Oh, strano. Però che ho in macchina 5 watt lo stesso. Però con l'antenna esterna funziona. Anche con l'antenna, con l'antennino. In macchina partendo. Quando esci dalla stradina di campagna che prendi l'asfalto, da lì comincia a sentirsi. Giù in campagna da me, vicino alla serra. Poi sparisce, fino a uscire dall'asfalto. Perché se deve essere che lì non è proprio potente, Questo qua deve essere che non è assai... è 7-7. Mi hanno detto, dice che cosa io ho messo il coso in internet, dice che il 7-7 non era tanto... l'8 è che buono. L'8-8-8. Non c'è l'8-8-8. Ce l'hai uno 8-8 tu? No, il 7-7 c'ho. 7-7-7. S. Ah, io non ho il mio, ho 888S. Infatti quelli sono ben riusciti, sono. Ma costano una cazzata, mi tocca. Una cavolata costano. No, se entri al bar non ti basta avere i soldi della radio o pagare la consumazione. Era già udo, in internet era già udo a 10,99 €. Ciao dottore, ciao Bacchisio. Sì, ciao Luca, appena entrato. Ecco, ho preso Bacchi. Pistole, scrivimi per Luca. Hai capito, l'ho trovato a poche lire. Via, va bene, 10,99 si può fare. Avanti Luca. Sì, ce l'ho anche più, allora mi stavo preparando che sto per uscire. Ma non c'era Graziano, poi c'era Gio Maria. Piano gli è mancata la batteria, l'ha messa a caricare e dunque se n'è andato, dice se ne va a dormire. Gio Maria non l'ho sentito io. Gio Maria deve essere andato a... se deve essere allontanato. Non so se è arrivata gente, boh. Non lo so. Sì, ho capito, dai, io vi saluto, sono andato a salutarvi e sto uscendo. A domani se Dio vuole, domani già ce l'ho il tempo per fare due chiacchiere. Ciao, buona serata e buona cena quando la fate, ciao. Sì. Ciao, buona serata, buon divertimento, a domani se tutto coincide. Grazie dei saluti, di essere stato a salutare. Tore avanti. Sì, ciao Luca, stammi bene, buona passeggiata sotto l'acqua. È chiaro, sotto l'acqua si passeggia stasera. Con l'ombrello. Adesso che in macchina non mi infondo. Ciao. Sì, ciao Luca. Ti prendi Bacchi. Ciao Luca, ciao. Serata di pioggia stasera. È una serata di pioggia, anzi un mese di pioggia. Adesso anche le tasche piene le abbiamo. Di questo tempo brutto ce ne sia per Pasqua anche, ammesso. Sì, fino a Pasqua ce l'abbiamo. Dunque Pasqua e Pasquetta è sotto l'acqua. Sino a mercoledì abbiamo acqua. E poi dice che cambia. Ma è anche ora che cambia però, non si può far nulla. Sì, uia, è tutta una cosa proprio... è compreso, è... boh. Questo mese è andato così. Tempi duri per i vampiri, adesso. Tempi duri per i vampiri. No. Allora cambierà. Cambierà questo tempo, non arriverà l'estate. Mi sa che l'estate, che sanno quando arrivi, vado a gaso. No, a me mi pare arrivi fuse, che Dio. Non arriva a gaso, arriva Eva. No, che si fa di... se ne va Eva. Ma poi vedrai che lungaggio che fa, si coppia tutta un'ora. Allora stiamo raccogliendo Eva, apriamo Eva, il bacino, prepariamo per l'estate. Infatti così deve essere. Acqua sino a questo mese e poi dal mese prossimo sarà un estivo per lungaggio. Vediamo e faccio un po'. A chi, ripeto, non si può fare niente, nulla, non puoi raccogliere nulla, non puoi andare da nessuna parte. Sempre pioggia, vento, Eva e testimoni. Cosa vuoi fare? Insomma, se andate da così ce la teniamo. Sì, ma quando divento miliardario ho fatto qualcosa di buono. Tappo tutta la Sardegna a cristalli. Senti, a me in macchina non mi si è bloccata la ventola, non funziona. Sono già due dì senza ventola. Oggi gata mi si è appannato tutto per andare a San Giovanni. Ma la ventola è in terra, quella dell'aria calda. Il caldo già funziona, la cosa già funziona, ma la ventola no. Adesso domani ne smonto il coso, ne smonto e guardo a vedere. da dove è, se la resistenza che c'ha, o la, cosa, o il fusibile interno. C'era più che altro il fusibile. C'era il fusibile che è partito. E dunque non tira la corrente e non gira. Mio genero mi ha detto, dice che c'ha un fusibile interno, partendo dentro, c'ha. E devo guardare prima quello lì, poi guardare questa resistenza, se è interrotta la resistenza, di controllarla con il coso, col tester, quella lì. E se no è partita la ventola, se è partita la ventola devo agitare. Ma si trova la ventola. Ma non si trova una ventola. Ma è del coso. È quella usata. Riciclata, non si trova. Ma conviene comprare la nuova. Sai cosa, è meglio comprare la nuova, sempre i bacchi. È meglio. Vabbè, la cadena può avere la garanzia, guida, può funzionare o non può funzionare, questo è chiaro. Anche quello c'è da pensare. Infatti, mi ha già mai detto, dice, controlli prima il fusibile, che non sia partito il fusibile interno, che deve smontare tutto quanto il cruscotto sotto, e sotto al cruscotto, controllare il fusibile, anche drento è, uno vora, che passa in fuori è uno drento. Non voglio tutto di fuori, il drento da in bocca. E bisogna smontare un pezzo di cosa, di cruscotto, per arrivare alla ventola e al fusibile. Infatti, bisogna smontarne... No, e dove c'è il coso, porta oggetti sotto, il cofanetto, là. La mia ce l'ha sotto proprio, e per arrivare alla ventola deve togliere tutto. Non è roba facile da fare, perché devi smontare tutto quanto il pezzo di sopra, e anche il volante, per tirare fuori il cruscotto. Io devo togliere soltanto il coso che c'è, il tappo, con tutto quanto, e controllare. Vedete che già come ne tolgo dall'affare, già si vede. E è tutto a portata di mano poi. Ho 8 viti. Allora è facile, 8 viti è facile da fare, l'avvitatore. Solo se piove devi mettere sotto il porticato. Sì, se vedo che la giornata è brutta manco lo docco. Se vedo che è bella la giornata domani mattina, allora sì. Che lo smonto e lo guardo. No, mi ha detto mio genero di aspettare. Agito. Ci provo io prima e poi, se no anda, sarà così. Andiamo a parlare al dottore, che sa dove mettere le mani, capito? Il dottore sa di pulire le mani, è facile da fare o no? E così si fa. Anda per la veda, avanti. Sì, purtroppo. Vabbè, do domani, piano piano me la voce. Guardo. Io sto sperando che sia il fusibile partito, perché l'altro fusibile che mi ha fatto vedere il mio genere era buono. Ma tu sia un fusibile esterno, tu lo hai controllato, dunque, se quello lì è facile da fare, cosa veloce. Il fusibile che c'ha dentro, dove c'è il motore, quello lì, nella scatola, fuori lì, era fuori lì il fusibile esterno. Adesso bisogna guardare quello interno. Per forza l'interno da levare. Ma il fatto è questo. Smontare vai sul sicuro, togli il fusibile e via. E se no, vedere il motore se gira. E devo guardare, se non è il fusibile devo guardare la resistenza, devo guardare. Controllare se funziona la resistenza. Se non funziona, devi chiamare a lui e me la fa avere subito. Ha detto che cosa bocco chissà. Perché la mia fa, ripeto che fa la mia, le frecce posteriori non si accendevano. Sono andato dall'elettrauto, non ho visto cosa ha fatto, invece è cambiata la lampadina, 10 euro, scopo di un paio di giorni torna la madre Simonetta. Allora sono andato alla Verona. Sono andato a Verona e mi ha detto quel ragazzo, dice, è una fesseria, cioè, si sono mollati i morsetti che ci sono attaccati al portalampada. Cioè, sono quello lì il difetto. Infatti l'ha aperta, ha preso le pinze, l'ha stretto e sta funzionando ancora. Hanno già preso nulla, io uso più di 10 euro. Fanno farla funzionare. Ladro, io sono proprio. Proprio ladro. Il mestiere è quello, to. Non hai visto quello che ha fatto. Dice che ho cambiato la lampadina, invece la lampadina non ha cambiato. Magari li ha spinti con le mani, con i morsetti, e dopo i camminenti, che la sarà in campagna, lo sai com'è. Balla che ti balla, si trova in putta, e non funzionavano. Se riesce di arrivare o tira 30 con la giave, tira 30 con la binza, no? Ha pagliato una specie di binza, quella che si usano per i fili elettrici. Ma il difetto è questo qua, sta via. Infatti me l'ha fatto vedere, dice, è una fesseria, se lo poteva fare anche lei, ma io non lo sapevo, adesso lo so e non ci vengo più da lei. Giulia, certo, io ne ho giambato poco, allora io ne ho giambato lo gozo, lo motore in avviamento, 200 euro. Ah, capito, costa, deve essere uguale a quelli della Renault, tanto è tutta la moto di famiglia. Purtroppo, già si può acconsare, però costava anche bene. Tra pezzi, tutto quanto mi costava tanto il nuovo, quindi ha detto, oh, me lo metta nuovo. Costava 136 euro di coso, di motorino, e più la mano d'opera. Non era garantito, era così, ne balia le onde. E invece nuovo è garantito, è garantito un anno. Sì, vabbè, è buono. Quando c'è la garanzia è sempre ottimale la roba. Certe volte siamo noi stessi che ci diamo la zappa ai piedi. E c'è da risparmiare. Risparmi. E cosa hai risparmiato? Nulla. Ne spendi di più. Infatti, la gente mi ha fatto, dice, se se lo cambia lei io glielo do. Se lo cambia lì. Sì, la gente se deve entrare sotto il motore, non è come ti vozzi io. Devo poi forse innanzi a una cosa, a meno che non me la sollevo e metto i cavalletti, allora sì, ma non è via gara che se devi entrare sotto, se devi entrare, sì, è vero, anda a vero, si prende i bacchi. E chi è che ha parlato, avanti, nulla, niente da fare. No, io nella 19 l'avevo cambiato io, il motore di avviamento, l'avevo comprato. E l'avevo piazzato io, due bolloni c'erano, aprivo il cofano, si vedeva pulito, senza entrare sopra, là sopra, due bolloni e è cambiato il motorino. Da me sotto ne devi togliere il pannello e poi andare a infilarci le mani sotto, un preso. Quindi ha cuccato sotto e falla e acciambare un motorino per un po' di domani, a meno che non te la muoio in un ponte, allora sì che riesci a travagliare bene. Ma purtroppo l'ha fatta l'elettrauto e mi è costata 80 euro in più. Quello sì. Ma per preso in più. Oia, come ho fatto? Mi sembra che sia arrivata l'ora del merendero, oia. È arrivata l'ora del merendero. Comincia a prendere medicine qua. Tore, ci sentiamo domani, dai. Ciao, stammi bene sotto la signora, buona cena, buon tutto, a domani. Ciao Tore, ciao anche agli amici che sono in ascolto, agli ascoltoni. Ok Bacchi, ci sentiamo, dai, alle prossime, ok. Ci sentiamo domani. Ok, ciao Bacchi. Ciao Tore, ciao.